5 e. Ascolta e rispondi. Simone ha una casa al mare? Sì, ce l'ha. Carl ha i panini? Sì, ce li ha. Giorgio ha molti soldi? Sì, ce li ha. Mina ha un rullino? Sì, ce l'ha.